Oh DJ. Dove sei? Ti ci devo chiedere una cosa. Sento che ti devo chiedere una cosa importante per il mio futuro. Ho bisogno di sapere che disco è questo. Sono un artista multimediale, a volte anche un po' antisociale. Suppongo sia il momento di firmare il testamento. E finisce la canzone, così, sfumando. Andiamo a casa. Forte però.